Lasciando il vestibolo, avevo detto al signor di Germain che desideravo ardentemente di vedere i suoi Elstir. «Ai vostri ordini! E così il signor Elstir è vostro amico? Sono desolato di non aver saputo che vi interessasse tanto. Lo conosco un poco, è un uomo amabile, quello che i nostri padri chiamavano un galantuomo. Avrei potuto chiedergli di farmi la grazia di venire e invitarlo alla nostra mensa. Sarebbe stato certo lusingato di passare la serata in vostra compagnia. Pochissimo ancien régime, quando, come ora, si sforzava di esserlo, il duca lo ridiventava subito senza volerlo. Dopo avermi chiesto se desideravo che mi mostrasse quei quadri, mi accompagnò, mettendosi graziosamente di lato a ogni nuova porta, scusandosi quando, per indicarmi la strada, era costretto a passarmi davanti. Una scenetta che, dai tempi in cui Saint-Simon racconta che un antenato de Guermant gli fece gli onori di palazzo con i medesimi scrupoli nel compimento dei frivoli doveri del gentiluomo, doveva essere recitata prima di scivolare sino a noi da molti altri Guermant per molti altri visitatori. E poiché avevo confessato al duca che sarei rimasto volentieri solo per qualche istante davanti ai quadri, egli si ritirò con discrezione, dicendomi che non dovevo far altro che raggiungerlo in salotto. Solo che, lasciato a tu per tu con gli Elstir, dimenticai del tutto l'ora del pranzo. Di nuovo, come a Balbec, avevo di fronte a me i frammenti di un mondo dai colori sconosciuti, che altro non era se non la proiezione del modo di vedere tipico di quel grande pittore, un modo che le sue parole non erano minimamente in grado di tradurre. Le porzioni di parete coperte dai suoi dipinti, tutti omogenei tra loro, erano come le immagini luminose di una lanterna magica che coincideva poi, in questo caso, con la mente dell'artista, e la cui singolarità sarebbe rimasta inconcepibile finché ci si fosse limitati a conoscere l'uomo, vale a dire finché ci si fosse limitati a guardare la lanterna sistemata sopra la lampada, prima che vi fossero inserite le lastrine di vetro colorato. Fra i quadri, alcuni di quelli che sembravano più ridicoli alle persone di mondo mi interessavano più degli altri, per il loro ricreare le illusioni ottiche dalle quali emerge la prova che non potremmo identificare gli oggetti se non facessimo intervenire il ragionamento. Quante volte in carrozza scorgiamo a pochi metri da noi l'inizio di una lunga strada, mentre abbiamo davanti solo un tratto di muro violentemente illuminato che ci ha dato il miraggio della profondità. E allora non è logico, non per artificio di simbolismo, ma per un ritorno sincero alla radice stessa dell'impressione, rappresentare una cosa mediante un'altra che, nel lampo di un'illusione originaria, abbiamo scambiata per quella? Le superfici e i volumi sono, in realtà, indipendenti dai nomi d'oggetti che la nostra memoria impone loro dopo che li abbiamo riconosciuti. Elstir cercava di liberare ciò che, in un dato momento, sentiva da ciò che sapeva. Il suo sforzo era diretto, spesso, a dissolvere l'aggregato di ragionamenti che chiamiamo visione. Coloro che detestavano quegli orrori si stupivano dell'ammirazione di Elstir per Chardin, per Peyronnet, per tanti pittori che loro, le persone di mondo, amavano. Non si accorgevano che Elstir aveva rifatto per suo conto, di fronte al reale, con l'indice particolare della sua inclinazione verso certe ricerche, lo stesso sforzo d'un Chardin o d'un Peyronnet e che, di conseguenza, quando smetteva di lavorare per se stesso, ammirava in loro tentativi dello stesso genere, quasi frammenti anticipati di qualche suo dipinto. Ma le persone di mondo non aggiungevano mentalmente all'opera di Elstir quella prospettiva del tempo che permetteva loro d'amare, o perlomeno di guardare senza disagio la pittura di Chardin. Eppure, i più vecchi avrebbero potuto riflettere che nel corso della loro vita avevano ben visto, man mano che scorrevano gli anni, diminuire la distanza incolmabile fra ciò che essi giudicavano un capolavoro d'Ingré e ciò che avevano creduto destinato a restare per sempre un orrore, per esempio l'Olimpia di Manet, sinché l'uno e l'altro non erano apparsi gemelli. Ma non si mette a frutto nessuna lezione, perché non si è capaci di risalire al generale e ci si immagina sempre di trovarsi al cospetto di un'esperienza che non ha precedenti nel passato. Mi colpì ritrovare in due quadri più realistici e di una maniera anteriore lo stesso signore, una volta in frac nel suo salotto, un'altra volta con giacca e cappello a cilindro a una festa popolare in riva al fiume con la quale evidentemente non aveva nessuna connessione. Segno che, per Elstir, non era solo un modello abituale, ma un amico, forse un protettore, che l'artista amava, come Carpaccio in altri tempi certi signori famosi ed effigiati con perfetta somiglianza di Venezia, far figurare nei suoi dipinti. Così come, ancora, Beethoven si dilettava a scrivere in testa a un'opera prediletta il nome adorato dell'arciduca Rodolfo. Quella festa in riva al fiume aveva qualcosa di magico. L'acqua, i vestiti delle donne, le vele delle barche, i riflessi innumerevoli degli uni e delle altre si fondevano in quel quadrato di pittura che Elstir aveva ritagliato da un pomeriggio meraviglioso. Il fascino irradiato dal vestito di una donna, che aveva momentaneamente smesso di danzare per il caldo e l'affanno, si ritrovava, con gli stessi effetti cangianti, nella stoffa immobile di una vela, nell'acqua del porticciolo, nel portile di legno, nelle foglie, nel cielo, così come in uno dei quadri che avevo visto a Balbec, l'ospedale, non meno bello, sotto il cielo di lapislazzuli della stessa cattedrale, sembrava più ardito dell'Elstir teorico, dell'Elstir uomo di gusto e innamorato del Medioevo, sembrava cantare «Ma che gotico, ma che capolavori! L'ospedale senza stile vale il glorioso portale!» Adesso mi pareva di sentire «Questa signora un po' volgare», che un dilettante in trasferta eviterebbe di guardare, escluderebbe dal quadro poetico che la natura compone sotto i suoi occhi. Questa donna è altrettanto bella. Il suo vestito riceve la stessa luce della vela della barca. Non ci sono cose più o meno preziose. Il vestito ordinario e la vela bella di per sé sono due specchi dello stesso riflesso. Tutto il pregio è nello sguardo del pittore. Ora, questi aveva saputo immortalare il moto delle ore nell'attimo luminoso in cui la donna aveva sentito caldo e aveva smesso di danzare, in cui l'albero era avvolto da un alone d'ombra, in cui le vele sembravano scivolare su uno smalto dorato. Ma, proprio perché l'attimo gravava su di noi con tanta forza, quella tela così fissata nel tempo dava l'impressione di un'estrema fuggevolezza. Si sentiva che presto la donna se ne sarebbe andata, le barche sarebbero sparite, l'ombra si sarebbe spostata, che la notte stava per scendere e il piacere per finire, che la vita passa e gli attimi, mostrati contemporaneamente con tutte le luci che vi si fondono, non si recuperano più. Un altro aspetto dell'essenza dell'attimo, a fatto diverso per la verità, lo riconoscevo in alcuni acquerelli d'argomento mitologico che segnavano l'esordio di Elstir e ornavano anch'essi quel salotto. Le persone di mondo avanzate arrivavano fino a quella maniera, ma non oltre. Non era certo il meglio che il Stir avesse fatto, ma la sincerità con cui il soggetto era stato pensato valeva già ad attenuarne la freddezza. Così, per esempio, le muse erano rappresentate come esseri appartenenti a una specie fossile, ma che non sarebbe stato difficile, in ere mitologiche, veder passare di sera a due o tre lungo qualche sentiero montano. Qua e là un poeta di una razza che presentava a sua volta caratteristiche ben definite per uno zoologo, fra le quali spiccava una certa asessualità, passeggiava con una musa, come in natura creature di specie diverse ma amiche che convivono. In uno degli acquerelli, un poeta, stremato da una lunga corsa in montagna, incontra un centauro che, impietosito, se lo carica in groppa. In altri, l'immenso paesaggio, dove la scena mitologica, gli eroi favolosi, occupano uno spazio esiguo e sono come smarriti, e reso, dalle cime al mare, con un'esattezza che restituisce, non appena l'ora del giorno, ma persino il minuto, grazie al grado preciso del declino del sole, alla fedeltà fuggitiva delle ombre. In tal modo l'artista, imprimendogli una totale istantaneità, conferisce una sorta di realtà storica vissuta al simbolo della favola, lo dipinge e lo riferisce al passato prossimo. Mentre guardavo i quadri di Elstir, le incessanti scampanellate che segnalavano l'arrivo degli invitati mi avevano cullato dolcemente, ma il silenzio che subentrò loro, e che durava ormai da molto tempo, finì, meno rapidamente per la verità, con lo strapparmi al mio fantasticare, così come quello che succede alla musica di Lindoro scuote Don Bartolo dal suo sonno. Temendo che si fossero dimenticati di me, che fossero già a tavola, mi diressi speditamente verso il salotto. Sulla porta della sala degli Elstir trovai ad attendermi un domestico, non so se vecchio o incipriato, che sembrava un ministro spagnolo, ma mi testimoniò lo stesso rispetto che avrebbe tributato a un re. Sentii, dal suo atteggiamento, che mi avrebbe aspettato ancora per un'ora, e pensai con spavento al ritardo che il pranzo avrebbe subito per colpa mia. Come se non bastasse, avevo promesso al signor di Charlieu di essere alle 11 a casa sua. Il ministro spagnolo mi condusse, non senza che, strada facendo, mi imbattessi nell'acché perseguitato dal portinaio, il quale, raggiante di felicità quando gli chiesi notizie della sua fidanzata, mi informò che proprio l'indomani era il giorno di libertà sua e della ragazza, che avrebbero potuto passare insieme tutta la giornata, e magnificò la bontà della signora duchessa. Mi condusse sino in salotto, dove temevo di trovare il signor di Guermantes di pessimo umore. Mi accolse invece con una gioia in parte evidentemente simulata e dettata dalla cortesia, ma per un altro verso sincera, ispirata sia dal suo stomaco, nel quale tanto ritardo aveva aguzzato l'appetito, sia dalla consapevolezza che la stessa impazienza regnava in tutti gli invitati di cui il salotto era gremito. In effetti, come poi venni a sapere, mi avevano aspettato per circa tre quarti d'ora. Il duca di Guermantes pensò, probabilmente, che prolungare il supplizio generale di due minuti non l'avrebbe aggravato e che, avendo rimandato di tanto per cortesia il momento di andare a tavola, la cortesia sarebbe stata più completa se, non facendo servire immediatamente, fosse riuscito a persuadermi che non ero in ritardo e non mi si addossava la responsabilità di quell'attesa. Mi chiese dunque, come se mancasse un'ora buona prima del pranzo e alcuni invitati dovessero ancora arrivare, che effetto mi avessero fatto gli Elstir. Ma in pari tempo, e senza lasciar minimamente trapelare i suoi crampi di stomaco, per non perdere un secondo di più, procedette di concerto con la duchessa alle presentazioni. Solo allora mi accorsi che, attorno a me che sino a quel giorno, prescindendo dal tirocinio nel salotto di Madame Swann, ero stato abituato in casa dei miei a Combray, a Parigi, ai modi o protettivi o diffidenti di borghesi ingrugnite che mi trattavano da ragazzino, si era prodotto un mutamento di scena paragonabile a quello che di colpo introduce Parsifal nella cerchia delle fanciulle fiore. Quelle che mi circondavano, completamente scollate, la loro carne appariva da entrambi i lati di un sinuoso ramo di mimosa o sotto i larghi petali di una rosa, non mi rivolsero altro saluto che quello scorrevole dei loro lunghi sguardi carezzevoli, come se solo la timidezza le avesse trattenute dal baciarmi. Molte di loro non erano, per questo, di costumi meno onesti. Molte, non tutte, giacché le più virtuose non provavano per le più leggere la repulsione che, nei loro confronti, avrebbe concepito mia madre. Una condotta capricciosa, negata contro ogni evidenza da amiche irreprensibili, sembrava importare assai meno nel mondo dei Guermant del numero delle relazioni conservate. Si fingeva di ignorare che il corpo di una padrona di casa era a disposizione di chiunque, purché il salotto rimanesse intatto. Poiché il duca si curava pochissimo dei suoi invitati, da molto tempo non avendo più nulla con loro da trasmettere o da apprendere, ma molto di me, il cui genere di superiorità gli era ignoto e suscitava quindi in lui un rispetto simile a quello che i ministri borghesi ispiravano ai gran signori della corte di Luigi XIV, riteneva evidentemente che il fatto di non conoscere i suoi commensali non avesse alcuna importanza, se non per gli altri, almeno per me, e mentre io mi preoccupavo, a causa sua, dell'impressione che avrei destata in loro, lui pensava soltanto a quella che loro avrebbero fatta a me.